altre cose che sono venute fuori dalla tua prima chiacchierata, cioè hai accennato che nell'otto eri a Carrara. Sì, quando giunse la notizia della fucilazione di Ferrer e noi organizzammo quella sera lo sciopero generale in coincidenza con manifestazioni analoghe che si tennero in quasi tutta l'Europa. Mi ricordo che fu del resto una cosa molto, oltre che molto interessante per me, che ero giovanissimo, avevo 17 anni, fu anche una cosa molto emozionante perché, per ragioni tecniche, perché i cavatori potessero partecipare allo sciopero, bisognava che fossero avvertiti entro le 2, le 3 di notte, insomma, per certe esigenze del loro lavoro, per cui se si iniziava un certo ciclo poi bisognava portarlo avanti. E allora noi partimmo, giovani repubblicani, giovani anarchici, giovani socialisti, dalla città per arrivare alle cave. Contemporaneamente ai primi lavoratori e dare esecuzione all'ordine di sciopero. Ma tu perché eri lì? Ah, io ero lì perché ero stato inviato lì da Eugenio Chiesa, che avevo conosciuto a Milano quando facevo una miseria nera, e lui mi aveva mandato alla Federazione Repubblicana di Carrara, della quale era il rappresentante in Parlamento, e così io facevo lì Il lavoro le politico, mie prime esperienze, sì. ma venendo da Milano. Venendo da Milano e dalla Romagna, Sì, naturalmente, dalla venendo Romagna a dalla Milano, da Romagna. Milano lì. Ecco, ma a Milano ti eri trasferito a quanti anni? A Milano io devo essere arrivato verso i 16 anni e mezzo, così. Ricordo che si costruiva quella che allora era la nuova stazione. La stazione, tant'è vero che io andavo a dormire nei cantieri della stazione con degli operai romagnoli che lavoravano lì.